Abbiamo qui con noi Porpora Marcasciano, attivista per i diritti LGBTQ, sociologa e pure presidente onorario del MIT, il Movimento di Identità Trans di Bologna. Allora Porpora, il tuo libro Tra le rose e le viole, la storia e le storie di transessuali travestiti è uscito ad ottobre 2020. Io volevo chiederti, intanto è un tema molto molto delicato, affronta il lungo ostacolato percorso per il riconoscimento dell'identità transessuale, e quindi volevo chiederti, ci vuoi raccontare un po' di cosa parla questo libro e cosa significa per te? Intanto buongiorno a tutte. Allora, questo libro in realtà fu pubblicato nel lontano 2002 e il problema è che poi non era finito, non si trovava più in giro e c'è tuttora una grande richiesta di quel libro, per cui cambiando casa editrice, quindi con Edizioni Allegre, c'è stata la ristampa. Perché questa grande richiesta? C'è un motivo principale, che è quello che Tra le rose e le viole è stato il primo lavoro che io definisco collettivo a più voci di una narrazione corale. Per la prima volta con quel libro le persone trans narravano, prendevano parola, ecco, perché fino a quel momento c'erano stati degli esempi ma rari di autobiografia o di biografie centrate sui personaggi più che sui percorsi. Lì invece sono 10 persone, 10 soggetti molto rappresentativi che raccontano una storia, che raccontano i secondi 50 anni del secolo scorso, dalle prime pioniere alle ultime, diciamo, che all'epoca erano ragazzine, quindi quando furono raccolte le interviste erano alla fine degli anni 90, e mettendo insieme le 10 storie, 10 racconti, veniva fuori un racconto, che era un pezzo di storia, dove ognuna di loro, e me compreso, non si erano resi conto durante l'intervista, durante il racconto, di tutta una serie di cose che invece si sono evidenziate, manifestate quando poi tutti hanno avuto in mano questo testo collettivo. Quindi, a mio avviso, come di solito faccio con i miei lavori, come li penso, io lo considero un testo politico, ecco, oltre che socioculturale, filosofico, antropologico. Le metto tutte insieme le visioni, perché ci stanno tutte insieme. Per chiudere questa tua domanda, per la prima volta le persone trans leggevano il mondo, lo interpretavano, e non al contrario, non era il mondo che leggeva e interpretava le persone trans. Poi aggiungo un'ultima cosa, poi ti lascio alle domande. Quel travestiti, storia di travestiti e transessuali, era di 20 anni fa, quando il vocabolario era ancora, non dico inesistente, ma molto molto ristretto, il vocabolario trans, dove tutta una serie di parole, di termini che oggi ci aiutano a definire e a tracciare i percorsi non c'erano. Per cui certo, quel travestiti oggi poteva essere trasformato in fluidità di genere, no binary, ce ne sono tante di certo, di concetti che all'epoca non c'erano, no? Quindi anche quello, no? Anche mettendo a confronto i linguaggi, la varianza di genere, no? Che oggi invece è molto usato come termine sia a livello scientifico che di movimento, no? Stava proprio a identificare i travestiti, perché all'epoca non riuscivo a trovare altro termine che non quello. Invece questo titolo, Tra le rose e le viole, cosa significa per te e cosa sono queste rose e queste viole? Allora, le rose e le viole intanto sono dei colori, no? E sono colori che ci appartengono al mondo delle donne, al mondo delle varianze di genere, appunto. appunto, voglio fare una citazione, che negli anni 70, i miei anni, quando, come dire, ero verde ed esultante, il viola era il simbolo proprio di una generazione, perché era la fusione tra il rosa e il celeste, tra i due colori che identificano i generi. Quindi il rosa è quello femminile, ma è quello di tante persone che si raccontano in quel libro, e viola altrettanto. E inoltre era il nome di una filastrocca che ci insegnavano le suore, io andavo dalle suore da bambina, e questa tra le rose e le viole si faceva un giro tondo, ma era riservato alle bambine, e io, essendo un bambino, non potevo girare in quel giro tondo che a me piaceva tanto. Quindi da lì le rose, tra le rose e le viole, che era il nome della filastrocca, e i due colori che ci stanno, anzi ci cascano, come si dice, come il cacio sopra i maccheroni, ecco. Beh, in realtà è un titolo veramente bello, devo dire, mi ha colpito molto. Poi ti chiedo invece, visto che nel tuo libro si affronta appunto queste interviste di queste persone testimoni di quello che è il lungo percorso per il riconoscimento dell'identità transessuale, ti chiedo, secondo te, storicamente parlando, quando si è visto un cambiamento radicale per quanto riguarda la rivendicazione dei diritti delle persone trans? Allora, io ho una data che la uso come punto di arrivo e di partenza, che è il aprile 82, che è quando viene approvata la legge 164. Certo. Quella legge cosa fa? Riconosce, per quanto in maniera molto stirata e quindi stiracchiata, la questione trans, che prima, fino a quel momento, non era mai stata presa in considerazione, era disconosciuta, era stata storicamente rimossa come esperienza, no? Prima le persone trans erano perseguitate, detta come va detta. Prendiamo l'esempio della romanina che vive a Bologna, no? E come dire, ce l'abbiamo vicina. Lei si fece 2 anni di confino perché considerata socialmente e moralmente pericolosa. Questo per dire come venivano viste le persone trans prima di quella data. Da quella data in poi è cominciato un percorso, a mio avviso lento, che ci porta fino ad oggi, di tutta la serie di cambiamenti, di trasformazioni, di acquisizione di diritti, perché lì bisognava conquistare il diritto di essere uno, proprio essere, il diritto di cittadinanza, sul quale costruire i vari diritti, il diritto alla visibilità, intendo, quindi ad essere a se stesse, il diritto al lavoro, il diritto all'accesso alla salute, alla dignità, cioè tutto quello che significa il diritto di cittadinanza. Diciamo che dall'82 in poi c'è questo processo. Le persone lo raccontano, traspare dal loro racconto molto chiaramente, e aggiungo anche un elemento, che il libro è datato appunto del 2002, è uscito nel 2002, quando ancora nessuno parlava di mettere mano alla legge 164, che oggi viene vista come lo spauracchio per le persone trans, ma a mio avviso non è uno spauracchio, è semplicemente una legge datata. Pensiamo che in 40 anni il numero delle persone trans è praticamente ventuplicato, si dice così, cioè all'epoca erano circa 2000 in Italia, oggi l'Istituto Superiore di Sanità stima in 400.000 la presenza di trans in Italia, con tutta una serie di questioni, problematiche, altre e diverse rispetto a quel periodo, no? E quindi andrebbe riadattata. Il problema è che non c'è stato dibattito politico, non solo all'interno del movimento, se di movimento si può parlare, ma proprio all'interno della politica, dei palazzi romani, ecco, per capirsi, dove si legifera sulle persone, sulla vita delle persone. Lì il dibattito si era bloccato da parecchio, quindi più che il problema della 164 in sé, che all'epoca era una vittoria, io direi che il problema è stato il vuoto di politica, il vuoto di dibattito politico. politico che c'è stato nei palazzi italiani, ecco. E nel libro questo è molto evidente, perché le 10 intervistate varie fanno riferimento alla 164 come un punto importante della storia di riferimento, ecco. Oggi non è più così. E oggi invece DDL Zan, che insomma conosciamo abbastanza bene, se ne parla molto, secondo te può essere considerato un passo verso la tutela dei diritti delle persone transessuali e poi di tutto il mondo LGBTQ? Ma sicuramente lo è, e io spero che lo sarà presto, perché più che per i diritti è per tutelare le persone anche trans dalla violenza, certo, dall'emarginazione. Ora è chiaro che tutti possono trovare e ravvisare dei limiti in quella legge, ma io penso che in Italia bisogna avviarli i percorsi, perché non esistono leggi perfette, ma e il percorso lo fanno poi i movimenti, le associazioni, le persone. Il DDL Zan, per quanto mi riguarda, va benissimo in questo periodo, andrebbe portato avanti e sostenuto da un movimento, se esiste questo movimento, per dare un segnale soprattutto di tutela alle persone trans ed LGBT in generale, insomma. Quindi, perché la violenza è un po' troppa, a mio avviso, anzi è troppa secondo i parametri a cui noi siamo abituati, ecco, quindi va fermata, va stoppata. Non è più possibile, ecco, gestire per le persone, una pressione di questo genere, e aver paura di girare, aver paura di stare in un contesto lavorativo, familiare, e quindi delle tutele ci devono essere.